Allora, noi come Assemblea Romana No Green Pass, diciamo, in tutto questo periodo dalla gestione della pandemia abbiamo sviluppato una serie di riflessioni collettive che ci hanno portato sicuramente a una crescita collettiva e a una presa di consapevolezza un po' di tutto quello che sta diciamo succedendo, quello che sta capitando, la configurazione riguardo la configurazione che ci si sta, no, costruendo intorno in modo sempre più evidente, che diciamo individuato nella pandemia sicuramente una chiave di svolta che ha accelerato moltissimo tutto questo, che ha consentito di sperimentare e di diciamo, provare anche sul campo svariatissimi meccanismi di condizionamento, dagli spostamenti territoriali, pensiamo al lockdown, all'accesso diciamo, a servizi o addirittura a spazi e attività, no, della nostra vita quotidiana. Pensiamo ad esempio al Green Pass o a quello che diciamo a chi non ha diciamo, accettato, non ha in qualche modo avuto un comportamento tra virgolette conforme, no, ha dovuto diciamo in qualche modo ha sperimentato direttamente sulla propria pelle, dalla sospensione sul lavoro al non poter andare sui mezzi pubblici o addirittura appunto non poter neanche nella gestione del proprio tempo libero, no, godere di quello di cui potevano godere gli altri. La pandemia è individuata, la individuiamo noi come punto diciamo, di non ritorno, perché inevitabilmente ha proprio posto le basi e, ahimè, ai noi, diciamo, in realtà ha funzionato, quindi come per esempio il lockdown lo possiamo individuare come ad oggi, no? Come la prima grande applicazione del blocco territoriale a seconda delle necessità, vale a dire anche lo spostamento fisico da una parte all'altra sicuramente è stato limitato, così come anche ha funzionato diciamo, come si può dire, il disprezzo sociale, no, per tutto ciò che non era riconosciuto in quel momento, ahimè, chiaramente fortemente condizionato da quella che è una fortissima campagna di propaganda, molto abile, molto sicuramente raffinata, che ha coinvolto realmente tutti noi. Ora, chiaramente la situazione è in evoluzione da allora, un po' come sempre quello che allora ci sembrava, no, una grande novità, la dichiarazione dello stato d'emergenza, la paura di morire, il Covid, tutto quello che comporta. Ora noi in realtà ci siamo tranquillamente abituati a uno stato permanente di emergenza, ci viene proposta una dopo l'altra, no? In continuazione un'emergenza. Emergenza permanente, che evidentemente o probabilmente è legata al fatto che in questo momento c'è una ristrutturazione, c'è una riorganizzazione tra di equilibri, tra diciamo, capitali sostanzialmente all'interno, no, di una specifica classe che comunque anche a livello mondiale in qualche modo necessita di poter intervenire liberamente come meglio si crede in qualunque momento a seconda delle diversissime necessità. Da qui la necessità dell'emergenza permanente e di una diciamo, ristrutturazione di un'infrastruttura che è atta a gestire questa situazione. Questo è un po', no, il quadro che noi in qualche modo ci siamo fatti. Riteniamo che questa situazione sia sulla via, no, della definizione nel dettaglio, non che lo sia già, questo ci porta a discutere e a cercare il più possibile di parlare di questo, perché chiaramente le cose non sono proprio già pronte, la situazione non è già scontata, ancora c'è uno spazio di movimento e forse è il caso che cominciamo a ragionare su come, quale sia questo spazio e come utilizzarlo, perché nel momento in cui questa infrastruttura sarà definita nel dettaglio sarà veramente molto molto molto complicato romperla, in qualche modo creare un punto di rottura e contrastarla. Detto questo, vale la pena però conoscere, no? Quello che ci si sta costruendo intorno. Ora, sentiamo parlare da quel meccanismo che ora riconosciamo tutti di propaganda della Smart City come la migliore delle cose che può fare l'essere umano, la migliore delle potenzialità, addirittura una città intelligente che ci renderà facilissimo comunicare, spostarci in qualche modo ci porterà, ci aiuterà ad essere dei buoni cittadini e a avere un buon comportamento, e in questo caso per l'emergenza del momento che è quella del salvare il pianeta, della sostenibilità e di tutto quello che c'è intorno a questo. Quindi anche ora, questa volta, anche questa volta, come prima, chi in qualche modo rifiutava diciamo, la gestione pandemica era un criminale di guerra, non sono a sentire un po' di tutti i colori. Oggi è un uomo degli sprechi, non è un buon cittadino, deve essere messo ai margini, eccetera, eccetera. Chiunque non accetti questo modo di affrontare, no, la situazione o non la riconosca come tale. Chiaramente, che cos'è? Proviamo a guardarla negli occhi questa Smart City. È sicuramente una città intelligente fatta di vari supporti tecnologici, tra cui il sensore, tra cui le connessioni tra i vari oggetti, no, tecnologici permessi, va detto questo chiaramente, da quella che è la rete al momento 5G, che consente la connessione tra oggetti, molteplici oggetti, innumerevoli oggetti a una velocità che è altissima, quindi questa connettività è forte e permette questa, diciamo, scambio di informazioni, perché di questo si tratta, tra tutto ciò che lo consente. Cosa lo consente? Lo consente qualunque ad oggi supporto dispositivo tecnologico che in qualche modo ha la potenzialità di scambiare o di raccogliere e di scambiare informazioni. A che servono questo flusso di dati che voglio dire, io camminando per strada con la mia connessione passo magari al sensore sul lampione, o passando con la macchina passo magari alla telecamera e a tutto il resto? Serve a tutti quelli che da questo ne traggono sostanzialmente profitto o controllo o diciamo la possibilità di condizionare, no, i comportamenti. Non è che proprio non è l'umano contro la tecnologia, non è questo, perché in realtà noi siamo fortemente convinti che si tratta di classi ben precise, figure ben precise, di interessi ben precisi che poi sono sempre gli stessi e che in qualche modo si ristrutturano appresso. L'obiettivo è sempre quello, ma sempre il profitto, e lo strumento è sempre lo sfruttamento delle risorse, energie e lavoro e di tutto ciò che noi riusciamo a trasmettere. Questo flusso di dati serve a tutto questo, serve da un punto di vista di condizionamento di conoscenza e di monitoraggio e condizionamento del consumo, serve per la raccolta dei dati a livello statale su quelli che sono no, il rapporto tra il cosiddetto cittadino e lo Stato. Serve ai militari, serve a livello militare, perché tutte queste tecnologie noi le troviamo nelle nostre città, nei nostri spazi, le troviamo nella nostra vita quotidiana e li troviamo in azioni di guerra. che forse è la reale tendenza, che è sempre più sovrastante, e che indubbiamente va gestita come è una perenne emergenza, una perenne tendenza alla guerra. Questo legame è molto forte. È cercato, è alimentato, ci sono ricerche che legano tecnologie civili con tecnologie militari, ci sono sperimentazioni in campo militare delle tecnologie civili e sperimentazioni al contrario di tecnologie utili in tempo di pace, se poi esiste un tempo di pace, che vengono poi anche attuate in guerra, come ad esempio attualmente sta avvenendo in Palestina, cioè, dove chiaramente ci sono delle tecnologie in campo militare che tra l'altro vedono coinvolte sicuramente in ambienti di ricerca, perfezionamento, produzione, progettazione, non solo lo Stato di Israele, ma anche svariati istituti di ricerca o università, per esempio anche italiane. Quindi da questo punto di vista il quadro è complessivo. Ora che dire, perché alla fine è così importante questa ristrutturazione tecnologica? Perché chiaramente permette di arrivare fino al dettaglio, quasi fino all'individuo. Assistiamo oggi a svariatissime applicazioni o sperimentazioni di aspetti particolari di questa infrastruttura in svariatissimi territori italiani, ma non solo, ora poi ce ne parlerà meglio Giulio, ma effettivamente ci sono vari aspetti in cui per esempio a Trento si sta sperimentando la connessione tra audio e video negli spostamenti territoriali per riuscire a capire come connettere un comportamento che in quel momento si sta manifestando sul territorio, ad esempio camminare, fermarsi su una piazza, che ne so, fermarsi con qualcuno a chiacchierare, con addirittura quello che si è prodotto o trasmesso attraverso una chat. Quindi questo è in via attualmente di sperimentazione, ad esempio a Trento. Non ho capito, scusa. Significa che se il tuo comportamento è riconosciuto, il tuo comportamento fisico Sì. anche, in un territorio come non conforme, quindi come non idoneo, non chiaro, Sì. ok, si può pensare, stanno cercando di riuscire a collegare quello che tu hai trasmesso con una chat, per esempio, a qualcun altro per vedere se quel comportamento insieme a quello che tu dici attraverso le chat, perché lo strumento principe di tutto questo è il telefonino, ok, se può in qualche modo costruire un'intenzione addirittura di reato. L'abbiamo sentito, la predizione del reato è una delle caratteristiche con cui addirittura la propaganda Hanno provato anche a Roma il Patanelis. Provano questa cosa su vari territori. E per quanto riguarda lo spostamento territoriale, addirittura assistiamo chiaramente a ticket di accesso, ad esempio Venezia o anche il centro storico di Milano, più o meno funziona in questo modo, che attualmente applicato alla ZTL, ovviamente non è solo della ZTL, è come se si immaginassero dei varchi che si alzano e si abbassano e che addirittura possano, a seconda della necessità, condizionare l'accesso a quell'altro territorio. Esiste il portafoglio digitale, sperimentato in altri territori, esiste l'uso di droni, sperimentato in altre città, esistono svariatissime sperimentazioni che apparentemente non collegate tra loro, in realtà si vanno a unificare, sono evidentemente un'unica infrastruttura. Il territorio più difficile, ovviamente, da gestire il territorio urbano e chiaramente quando questo sarà sperimentato probabilmente troverà applicazione complessiva e insieme. Ok, cosa succede nel territorio urbano? È veramente molto difficile controllare un ampio territorio o comunque riuscire a gestire questo flusso di informazioni così grande, ma anche a poi materialmente mettere in atto dei condizionamenti forti. Ecco qui la genialata, no? La genialata che dice che inventa, no? Inventa. Il quartiere ideale dove tu trovi tutto all'interno dello stesso quartiere, dove non avrai neanche bisogno di prendere un autobus o di prendere una macchina, perché tutto quello di cui hai bisogno io lo so e te lo faccio trovare. Non c'è bisogno che tu mi dici che vuoi fare altre cose, no, no, che devi fare? Lo so io perché ti capisco, ti comprendo, ti monitoro, ti studio talmente tanto che so benissimo cosa vuoi e se non lo vuoi, in qualche modo te lo farò volere. Ora sembra tutto un discorso un po' complottista, non è complottista perché poi effettivamente trovo Realista. applicazione reale, no? Proprio in svariati. In svariati modi, arriva addirittura a condizionare i rapporti sociali, vale a dire che chiaramente sono sempre più difficili, è sempre più difficile andare oltre quel territorio. Anche oggi che non c'è il varco ancora, anche oggi che in qualche modo tu, nessuno ti ha detto che non ti puoi spostare. Se tu vuoi veramente andare da qui all'altra parte della città con la macchina, cioè, avremo fra poco varie limitazioni, sempre più limitazioni. A piedi, non lo so se voi ci provate, ma è sempre più difficile perché di fatto con l'autobus ti stanno togliendo i mezzi pubblici, ti stanno assolutamente togliendo. È evidente l'intenzione di tenerti stabile, fermo o comunque il più possibile, no? In un territorio più facilmente gestibile, perché poi alla fine questo è, alla fine, a conti fatti di questo si tratta. Ora, ovviamente di qua potremmo parlare per ore, potremmo parlare di tutto questo veramente per ore. Il punto è, cos'è che non riescono a risolvere? Qual è la chiave che non si riesce a risolvere? È il fatto che in ognuno di noi, per quanto tu vuoi condizionare, per quanto vuoi in qualche modo gestire o addirittura portarmi a volere solo quello che si può volere, no? Oppure anche a farmi sfruttare con meccanismi di ricatto, condizionamento, eccetera, eccetera, assolutamente ben conosciuti in realtà, c'è sempre la soggettività, c'è sempre l'imprevedibilità. Ok, ora stanno studiando per vedere come in qualche modo, no, con la famosa rete 6G, che è il passaggio successivo, capire come leggere delle reazioni, no, del corpo, che poi sono reazioni elettriche, chimiche, no, per addirittura individuare lo stato emotivo oppure la reazione possibile dell'essere umano, quindi la connessione dell'uomo con addirittura un computer, non solo cose che comunicano tra loro, ma anche esseri umani che comunicano, ok, a un computer. Ora noi poi la maggior parte addirittura forniamo senza nessun problema tutti questi dati necessari per questa sperimentazione, dall'orologio che comunque conta i passi o che ti legge se stai bene, quello sono tutti dati che in qualche modo sono utili per capire come si modifica la pulsazione di un corpo, per dire, in un certo stato o in una certa attività. Ovviamente nessuno, ovviamente questa cosa nella sua complessità è realmente poco compresa ed è sempre più difficile ragionare su questo, soprattutto chiaramente con una generazione, una parte generazionale che non conosce assolutamente altro. Cioè, questo va detto, è molto difficile perché sei come un mostro strano che chissà che vuoi, tu vuoi l'aratro, tu vuoi la grotta, vuoi la vita in una capanna di paglia e quindi sei assolutamente incomprensibile. Cioè, è questa spesso la reazione. Quindi ragioniamo un po' insieme su come entrare in un momento ancora in cui si può fare, oltre che recuperare il nostro spazio, cioè di libertà, quindi sganciarci da questi dispositivi quando lo vogliamo sempre di più, non utilizzare tutto quello che è poi inevitabilmente tracciabile, perché è così, dal utilizzarlo non è possibile, perché non utilizzarlo è praticamente impossibile. Ragioniamo però anche come trovare un punto di rottura per poterlo in qualche modo contrastare, finché riusciamo a farlo, finché è possibile farlo, insomma. Bene, allora noi abbiamo pensato di mandare un video che è praticamente un video sulla situazione, una situazione particolare in Palestina, che però ci fa capire tantissime cose. Cioè il fronte esterno non può mai essere scisso dal fronte interno. Fronte esterno e fronte interno si rimbalzano, le esperienze che vengono fatte sul fronte esterno rimbalzano poi sui territori nostri nazionali e viceversa. In questo discorso Israele è una punta di diamante. È una punta di diamante per tanti motivi. È una punta di diamante perché è all'avanguardia nelle sperimentazioni militari, nelle sperimentazioni tecnologiche, nelle modalità di gestione della guerra, e queste modalità di gestione vengono prima di tutto studiate, poi sperimentate, poi testate sulla popolazione palestinese, che è addirittura carne di sperimentazione diretta. Le tecnologie e lo studio e la sperimentazione, sia sul campo militare sia sul campo civile, da parte di Israele, vengono ormai esportate in tutto il mondo. Tant'è vero quello che diceva Silvia prima: ci sono delle città italiane, delle smart city tipo Trento, quello che ci racconterà poi Giulio, che sono diciamo particolarmente adatte allo scambio con Israele rispetto a tutta una serie di principi, tutta una serie di test. In secondo luogo, Israele è una punta di diamante anche per un altro motivo, perché non soltanto applica metodologie di controllo sociale, di controllo coloniale, ma ottiene un rapporto diverso con le popolazioni assoggettate, con la popolazione palestinese assoggettata, che possono essere applicate anche sui nostri territori. Tant'è vero che noi abbiamo scelto questo filmato anche per questo motivo, perché Red Wolf è un tipo di scannerizzazione facciale, un tipo di controllo, presuppone, che è stata praticamente sperimentata soprattutto nella città di Hebron. Però quello che non si dice, che non si racconta, sono i risvolti sociali, psicologici, personali sulla popolazione, che viene ridotta in uno stato di angoscia perenne. Cioè la cosiddetta ricerca della sicurezza porta un'insicurezza profonda all'interno della popolazione, che si sente monitorata 24 ore su 24, che si sente spiata in ogni gesto, dall'andare a scuola all'andare al mercato, che si sente in difficoltà nell'esprimere qualsiasi cosa, tant'è vero che qualsiasi tipo di dissenso, anche il più pacifico, trova delle difficoltà notevoli, perché loro sanno che nel momento in cui mettono in atto una qualsiasi forma di protesta, anche con qualsiasi cartello, quello avrà delle conseguenze nei loro riguardi, nei riguardi delle loro famiglie, nei riguardi dei loro parenti, nei riguardi dei loro amici, perché loro sono soggetti a un controllo incrociato ed è tutto collegato. Oltretutto, oltre a questo, Israele è anche la punta di diamante dal punto di vista economico della zona medio orientale e degli interessi occidentali. Quindi bisogna prestare molta attenzione a quello che succede sul fronte esterno, perché verrà sperimentato e ribaltato nei nostri territori, e allo stesso tempo quello che viene testato nei nostri territori, che sono territori ancora prettamente di controllo civile, può essere esportato come democraticità nei paesi che invece sono sottoposti a un vero e proprio genocidio come quello che è in atto. Quindi vi proponiamo questo video, che è però un video di Amnesty International. Noi ci teniamo a fare una precisazione, cioè non siamo, non solo non abbiamo niente a che fare con Amnesty International, ma non ci appartiene neanche questo tipo di approccio, che non è altro che un modo di lavarsi la coscienza di chi in effetti ha provocato e provoca tutto questo che succede in Palestina. Però allo stesso tempo riteniamo molto importante l'impianto iniziale che loro hanno dato allo studio dei riflessi sulla popolazione, dei riflessi di questo tipo di gestione del territorio sul diciamo alle conseguenze, all'impianto generale, a quello che poi potrebbe succedere anche qua. È molto impressionante quello che vedete in un video di una zona sottoposta a guerra, che in effetti non ha niente, non avrà niente di diverso rispetto a quello che succederà. Sì. Una cosa per cui questo parallelismo, diciamo, con questo parallelismo, i motivi per cui Israele è una punta di diamante va tenuta sotto osservazione, che non emergono tanto da questo video, anche perché è di Amnesty International, nel senso che poi non fa alcuni collegamenti, secondo me, e cioè il fatto che, essendo l'apartheid contro la Palestina chiaramente strutturato a livello pratico in una serie di checkpoint, di zone delimitate, in cui quindi ci sono tantissimi varchi, tutti questi strumenti di sorveglianza sono anche degli strumenti di regolazione, diciamo, molto coattiva dei flussi di lavoro e di forza lavoro, per cui, cioè, quello che avviene in quei territori rispetto a come va un palestinese della Cisgiordania a lavorare nei territori occupati del 48, oppure in altre zone che sono classificate con A, B e C, era emerso anche da un'altra iniziativa che abbiamo fatto invece sulle prigioniere palestinesi, in un altro, insomma, che sono anche dispositivi connessi a espropriazione, a forme di espropriazione della forza lavoro anche differenziate eppure nuove. E anche da noi la ristrutturazione della Smart Cities e anche nella città dei 15 minuti ha sottesa una ristrutturazione anche del mondo del lavoro. Non è che sono soltanto tecnologie di controllo, diciamo, repressive e basta, ma hanno proprio una funzione di regolazione all'interno della quale il ruolo dell'associazionismo, diciamo, e del collaborazionismo è molto importante. In Palestina questo si vede con l'autorità nazionale palestinese, che appunto è quella che gestisce questi passaggi dei lavoratori tra un territorio e l'altro, ed è quella poi che si occupa di eseguire proprio le pene che vengono date in base a questi sistemi di sorveglianza. Eppure nei nostri territori, diciamo, altre istanze di collaborazione aiutano.